Ciao ragazzi, sono Theo Guéguenot di squadra Ineos Grenadiers e benvenuti tutti la Girona. Geronimo. Benvenuti tutti la Geronimo. Amiche e amici del ciclismo, della pioggia e della liberazione, mi piacerebbe dirvi che questa puntata va in onda dalla sede del primo governo dell'Italia liberata, dove abbiamo trascorso l'intero pomeriggio all'interno del municipio di Salerno, ma invece no, va in onda dalla stanza numero 207 dell'hotel Giordano Bruno di Nola. La che nuova puntata Giordano Bruno. Giordano Bruno, bellissimo. E tra l'altro porta punti al fatto che questo podcast avremmo dovuto chiamarlo Girolamo, sapendo che andavamo all'hotel Giordano Bruno. Invece no, si chiama Geronimo, è il podcast di Al Vento in collaborazione con Shimano dedicato al trofeo Scacchi Scuola del 2023. Io sono Filippo Cauz, con me ci sono Leonardo Piccione. Buonasera. E Michele Pelacci. Michele Pelacci. Che ride perché Michele Pelacci è felice, sì. Sebbene questa giornata lo abbia visto così, un po' in seconda fila per cause alimentari, ma ne parleremo più avanti perché sarà una puntata ricca di alimentazione. E di tante cose, il titolo di questa puntata, quest'anno non diamo i titoli agli episodi, però sarebbe... Ho due titoli possibili, uno è Grande Casino, perché Grande Casino è il classico, tra l'altro una condizione che Roglic aveva invocato in un'intervista prima del Giro, oggi c'è stato, e un altro, secondo me ancora migliore, è Il Potere del Cane. Il potere del cane e direi anche del gabbiano, che è stato un protagonista della caduta numero 2. Avrete capito che parleremo anche di cadute nella tappa odierna, d'altronde difficile non parlarne, visto che hanno rappresentato un po' uno degli elementi chiave dell'ultimo quarto d'ora della giornata ciclistica. Forse del primo, o comunque della fase iniziale della tappa e poi di quella finale. In mezzo tanta acqua, una fuga, ma facciamo un po' il punto, il riassunto in poche parole. Velocissimi. Una fuga, abbiamo detto, partita al chilometro 7, quattro corridori, Gandin, detto Gandin, Champion, detto Champion, Zoccarato, detto Zoccarato, partono insieme a Thibaut Pinot all'attacco del primo Gran Premio della Montagna, che Thibaut Pinot si aggiudica, si mette nella sua tasca posteriore altri punticini utili per la maglia che indossa, che è quella della tinta azzurra o blu, e poi si sfila e lascia andare gli altri tre. La fuga dura 164 km, non prenderanno mai un ampio margine, sui 3 minuti e mezzo al massimo. L'ultimo a venir ripreso è stato Zoccarato. Sì, Samuele Zoccarato della Bardiani. Sì, ed è stato l'ultimo momento di calma prima del finale concitato. Sì, forse non per Zoccarato, che secondo me non so... No, ma magari una volta che vieni ripreso sei calmo. Questa è una cosa che non abbiamo mai chiesto ai corridori, ricordiamoci. E ultimo momento di calma, nel frattempo piove, la gatta non si muove. Gatta che tra l'altro è un animale che non è stato protagonista, mentre il protagonista è stato il cane nella prima parte di tappa, che ha innescato la caduta che ha coinvolto Remco Evenepoel. Cane di piccola taglia, ci teniamo a dirlo perché è sempre importante specificare, non so la razza, voi la sapete? No, io no. Cioè, secondo me era un bastardo. Io, se mi dici nomina tre razze di cani, sono in difficoltà, per vai. Cui nomina due razze di cani. Bulldog. Ok. Bassotto, a due ce le hai, potevi dire il barboncino e arrivare a tre. Grande casino, diciamo, nei chilometri finali il gruppo si spezza ripetutamente per svariate cadute. La prima è un'innocua scivolata in una curva verso destra su una strada che era molto molto bagnata, per cui era difficile restare in piedi, e scivola Gaviria tra gli altri, sì. Più tanti corridori dell'Alpecin, diciamo quelli con le maglie blu. Quella blu, scivolata ha interessato quelli con le maglie blu. Avevano ancora le mantelline addosso, altri meno, quindi non era semplicissimo capire. E questa è la caduta in cui è rimasto coinvolto, tra gli altri, Roglic. Primoz Roglic, esatto. Leknesund, la maglia rosa. E anche la maglia rosa Leknesund, esattamente, che era in maglia rosa. In quel momento non era in mantellina. Roglic riparte dando la sua bici a Koen Bouwman, che doveva fermarsi per fare pipì e ne ha approfittato per cambiare bici, che è sempre anche una norma igienica. Il gruppo si spezza, pian piano si ricompattano. Prima i Jumbo, tirati da Affini, rientrano sul secondo gruppo. Che tirata ha fatto Affini lì. Che tirata che ha fatto Affini, esatto. E poi il secondo gruppo rientra sul primo, dove c'erano prevalentemente i Quickstep e gli Inei, che ricordiamo è il plurale di Ineos. Meno 3, neutralizzazione, e poco dopo va giù Remco Evenepoel. praticamente da solo, nel senso impatta su un corridore della Trek, ma fa tutto. Tra l'altro su uno dei pochi tratti non bagnati del percorso. Sì, si è fatto sorprendere un po' da... Lui parlava con un compagno, un corridore della Trek lo ha quasi urtato un secondo, poi si sono toccati evidentemente, lui è scivolato, è stato sfortunato, misto, sbadato, ecco. Sì, sì, sicuramente sfortunato, perché quando vai a sbattere per terra due volte nello stesso giorno, parlare di fortuna sarebbe una parola grossa. Un altro termine che lo definirebbe molto bene in quel momento è incazzato, perché anche questo dagli torto quando vai a sbattere due volte e sei qua per vincere il Giro d'Italia. Si arrabbia molto. Si arrabbia molto, posso dire, anche con se stesso dovrebbe un po' arrabbiarsi. Sì, perché penso che la prima persona con cui si è arrabbiato sia stato se stesso. Si arrabbia molto. Devo dire che, se posso dirne una, poi dopo torniamo velocemente alla cronaca di tappa. È vero che si arrabbia molto, è vero che è un momento molto di sfogo, giustamente, dopo essere caduto. Però ho apprezzato molto il fatto che, probabilmente su suggerimento dei suoi direttori sportivi, gli è stato detto subito, probabilmente sei nei meno tre, non ti preoccupare, è stato seduto il tempo necessario, si è rialzato, non ha affrettato le cose, che denota anche una certa mentalità anche in questo caso. Più della sua squadra, in questo caso, che è stata brava a almeno cercare di tranquillizzarlo, perché lui, ecco, come dicevamo all'inizio, forse l'aspetto nervoso di Remco Evenepoel è ancora qualcosa di, come dire, che può diventare problematico per questo corridore, che ha corso poco. Cioè, Evenepoel corre in bicicletta da poco tempo, situazioni così tese, così complicate come il finale di oggi lui non ne ha vissute tante, e capita di commettere degli errori, capita di più quando sei inesperto. Fatto sta che il gruppo davanti che va a giocarsi la volata è molto molto sgranato, domina abbastanza nettamente la volata, credo si dica Caden, ma questo non lo possiamo sapere, Groves della Alpecin, che si aggiudica la tappa odierna in quel di Salerno. E andiamo subito a vedere l'ordine di classifica l'ordine d'arrivo, scusatemi. Sì, l'ordine d'arrivo, quindi ha vinto Caden Groves, che potrebbe anche chiamarsi Caleb, visto anche una certa somiglianza con l'altro velocista australiano, no? Dici che ci assomiglia? Beh, è piccolino, altrettanto, forse un pochino più alto di Ewan e Groves. Ha uno stile ovviamente in volata completamente diverso, però Caden Groves ha vinto. Tra l'altro possiamo, adesso non voglio dire che siano i tre corridori australiani più importanti, perché ce ne sono stati tanti altri, però se Caden Groves diventa uno dei corridori più australiani più importanti, potrebbero essere Cadel, Caleb e Caden, gli australiani di riferimento. Ci pensavo anch'io oggi. Ha vinto su Jonathan Milan, che è arrivato secondo, un risultato molto positivo, con la mantellina indosso ancora. Non si è tolto la mantellina, altro forse possibile errorino da inesperienza, mettiamola così. Terzo, Mats Pedersen. Quarto sarebbe arrivato Alberto Dainese, ma è stato declassato nel post-tappa di 30 posizioni, quindi è arrivato in teoria 34esimo, e quarto è scalato di una posizione Mark Cavendish, che è stato protagonista poi di una caduta proprio con Dainese, in seguito a un impatto con Dainese sulla linea poco prima della linea del traguardo, perché Cavendish l'ha tagliata in modo abbastanza inusuale, perché la sua bici è arrivata prima di lui praticamente a tagliare la linea del traguardo. Sembra che comunque non ci siano, per fortuna, conseguenze dal punto di vista fisico. Quinto, Nicolas Dalla Valle della Corratec, che ha portato a casa un ottimo risultato per questa squadra. Sesto, Mirko Maestri, anche lui caduto dopo la linea del traguardo, anche lui sembra che non abbia grossi problemi. Settimo, Filippo Fiorelli, e continuiamo perché anche Fiorelli è stato protagonista di un arrivo insomma abbastanza caotico. Ha strisciato lungo la transenna destra, ha incrociato il braccio e il telefono di uno spettatore ed è riuscito a rimanere in equilibrio, bravissimo in questo caso Fiorelli, che è arrivato settimo. Ottavo, Andrea Vendrame, che purtroppo tra tutti i caduti, i tanti incidentati di oggi, è quello che forse ha riportato le conseguenze più gravi, non sappiamo ancora bene, però è stato, se non sbaglio, portato via su una barella o su un'ambulanza. Quindi ci auguriamo che Andrea Vendrame non se la sia cavata troppo male. Nono, Michael Matthews, è decimo a concludere la top 10, Niccolò Bonifazio della Intermarché. Quindi chi non cade è Caden, lui si aggiudica la tappa. Michele Pelacci, questa volata, questo vincitore, cosa ci dici? Interessante, bello, erano dei miei velocisti più frizzantini, se vi ricordate li avevo attenzionato nella tappa 0 di Gironimo. Mi è piaciuto come hanno lavorato per lui due gregari italiani, Sbaragli e Oldani. Volata lunga, quindi anche di potenza, ha dimostrato di avere una ottima velocità di punta, Groves, battendo chi aveva vinto la tappa precedente, per cui Milan questa volta non ha fatto il bis. Ha detto tre cose che mi sono segnato in conferenza stampa Groves. Una è che ha fatto complimenti comunque all'asfalto, gli è piaciuto per gran parte della tappa. Solo complimenti all'asfalto? Sì, ha detto che era buono, era soddisfatto. Ma nel senso che l'asfalto gli ha fatto una domanda e lui gli ha detto ottima domanda, complimenti. Esatto, esatto, proprio così è andata. Ha detto che l'asfalto era un po' solo oily, quindi era un po' olioso, solo nelle parti in cui era più nuovo, appena fatto. E poi gli ho chiesto un po', volevo conoscerlo meglio dal punto di vista personale, quindi gli ho chiesto cosa ti piace fare al di fuori del ciclismo e ha risposto che adora la spiaggia e giocare a golf. Spesso poi quando qui è inverno in Europa torna in Australia perché gli amici australiani non li vede per tutto l'anno. Quindi lui in pratica non conosce mai la stagione invernale perché si fa l'estate in Europa, poi torna in Australia quando da noi è inverno, lì è estate. Cioè praticamente il contrario... da tanti punti di vista di Leknessund. Leknessund viene da uno dei posti più freddi di questo continente, invece Caden Groves odia l'inverno, possiamo dire. E invece oggi ha vinto con condizioni freddissime, strane, insomma, freddissime autunnali, no. Condizioni autunnali. Grazie, sì. L'ultima cosa su Groves che mi sono segnato è che ha segnalato il fatto che lui ha notato il vento che arrivava dal mare e quindi si è spostato a fare la volata sulla transenna di destra, no? Arrivando verso il traguardo di Salerno, cosa che potrebbe aver insomma inciso sulla dinamica. Ma questo perché lui fa surf anche? No. Perché se facesse surf, studiare il vento, capire il vento è una caratteristica fondamentale, magari. Beh, però ha detto che fa golf. Esatto, che comunque infatti... anche nel golf immagino che il vento abbia il suo perché. Il vento ha sempre il suo perché. E non so se hai altro sul vincitore di tappa, su Caden Groves. No, non ho altro. Non hai altro, forse passerei direttamente a leggere la classifica generale. Classifica generale che è quasi del tutto immutata, quantomeno nelle prime 9 posizioni. È cambiato il decimo, che non è più Jay Vine. Jay Vine oggi ha perso più di un minuto dalla maglia rosa ed è sceso in 21esima posizione. Mentre fortunatamente non sono cambiate, fortunatamente per Evenepoel, le prime posizioni, perché la caduta che ha coinvolto il campione del mondo è avvenuta, come abbiamo detto, entro i 3 km, quindi dopo la neutralizzazione. Questo significa che il distacco di Evenepoel da Andreas Leknessund continua a essere di 28 secondi. Terzo è Aurélien Paré-Peintre con 30 secondi, e poi a seguire Almeida, Roglic, Geraint Thomas, Vlasov, Skuins, Gegenhardt e il nuovo decimo della classifica generale, che è Vincenzo Albanese. Tra gli uomini di classifica o presunti tali, oltre a Vine, hanno perso qualcosa, oltre un minuto, anche Rigoberto Urán e Nicola Conci, che era quindicesimo fino a questa mattina. Quindi si può dire che passare da Oliveto Citra ha fatto bene a Vincenzo Albanese, è in top 10 adesso in classifica generale. Sì, è in top 10, non credo che sia esattamente il suo obiettivo no. Primario in questo Giro d'Italia, forse domani gli interessa fare qualcosa di meglio, ma forse parleremo anche di questo più tardi. Qualcosina sulla maglia rosa, che abbiamo per la seconda volta consecutiva visto e intervistato in qualche modo oggi in conferenza stampa. È stato bravo, secondo me, lui a gestire proprio con serenità la fase in cui si è trovato coinvolto nella caduta dei Movistar di Roglic e si è trovato nel secondo gruppo e con grande serenità lui si è messo lì a ruota degli Jumbo ed è rientrato ed ha difeso questa sua maglia. Leknessund è un ragazzo del 99, quindi ha soltanto un anno più di Evenepoel, però forse in quanto a serenità mentale è un pochino più avanti. Beh, credo che abbia anche un filino di pressione in meno su questo Giro anche. D'Italia al buon Leknessund. Anche però la maglia rosa, comunque un pochino di pressione addosso la mette, lui è stato bravo a gestirla. E poi ha parlato di altre curiosità sul suo conto che gli sono state chieste, no? Sì, in realtà più che ha parlato non ha parlato, nel senso che per prima cosa non ci ha detto se il suo soprannome The Dog è correlato con la disavventura di Evenepoel quest'oggi, perché... Il rischio c'era, ma nessuno gliel'ha chiesto per fortuna. Anche noi che facciamo delle domande sempre strampalate non scendiamo a questi un po' livelli. Troppo. Però una cosa gliel'abbiamo chiesta ed era l'origine del suo cognome, Leknessund. che dice che viene da un paesino della Norvegia occidentale. Non viene esattamente da Tromsø questo cognome, ma la sua famiglia viene da un paesino della Norvegia occidentale. Io gli ho chiesto questa domanda perché pochi minuti prima avevamo ricevuto un messaggio audio dal buon Gino Cervi. Oh, è tornato. Che finalmente fa sentire la sua voce in questo podcast. E sentite come la fa sentire parlando della maglia rosa. Che Andrea Leknessun sia il primo norvegese a riconquistare una maglia rosa dai tempi di Knut Knutsen, l'hanno già detto tutti. Così come pure hanno detto che è la prima maglia rosa nata oltre il circolo polare artico, cioè a Tromsø. Nessuno ha ancora detto che il nome Leknessund può tradursi come il rumore di Leknes, Leknessund, rumore. E Leknes sta per il nome di un villaggio delle isole Lofoten, che credo si pronuncino Lofoten. C'è una storia curiosa che mi fa pensare che il buon Andreas potrebbe fare di tutto per conservare la maglia rosa, difficile, però ci può provare fino alle tappe venete, perché c'è una storia che lega l'arcipelago norvegese al Veneto, ed è una storia che risale al 400. Un mercante veneziano e navigatore, Pietro Querini, intorno al 1420, fece un clamoroso naufragio. Lui stava portando delle mercanzie, delle spezie, delle stoffe nelle Fiandre, ma un naufragio clamoroso lo fece prima andare verso le coste dell'Irlanda, e poi l'equipaggio, che si ridusse a poche decine di uomini, venne trascinato alla deriva su delle barche di fortuna fin su, grazie alla corrente del Golfo, fino a una piccola isoletta delle Lofoten, che stanno quasi all'estremità nord della Norvegia. Qui sopravvissero, vennero raccolti da alcuni pescatori dell'isola di Rost, e qui il Querini, Pietro Querini, scoprì la bontà e l'efficacia dei metodi di essiccazione del merluzzo, ovvero dello stoccafisso, tanto che ne scrisse poi una relazione al Senato veneziano in questo modo: gli stoccafissi sono grossi pesci seccati al vento e al sole, senza sale, e perché sono pesci di poca umidità grassa diventano duri come legno. Quando si vogliono mangiare li battono col roverso della mannara, che li fa diventare sfilati come nervi, poi compongono butiro e specie per dargli sapore, ed è grande inestimabile mercanzia per quel mare d'Alemania. Insomma, avete capito da dove deriva il famosissimo baccalà alla vicentina, fatto appunto con lo stoccafisso ammollato. Ancora oggi credo che la gran parte delle esportazioni di merluzzo conservato in questo modo dalla Norvegia arrivi proprio sulle tavole dei veneti. A Sandrigo c'è addirittura una sagra del baccalà, e Sandrigo stessa, provincia di Vicenza, è gemellata con questo villaggio di Rost. Quindi Andreas Leknessun fa in modo di arrivare almeno fino a Caorle vestito di rosa e fatti servire un grandioso baccalà. Come capirete, l'argomento culinario è protagonista di questa puntata, come di quasi tutte le puntate di questo podcast in cui non si parla del trofeo scacchi scuola. Ci tengo però a specificare due cose: una, che Sandrigo è anche il paese di Pippo Pozzato, per cui abbiamo un ulteriore legame, e l'altro fatto è che io non lo so se Leknessund arriverà in maglia rosa a Caorle o Caorle, non credo, mi sembra improbabile. È un po' in avanti. Non so nemmeno se ci arriviamo noi a Caorle o Caorle. È più difficile. E con quali magliette addosso, sicuramente, essendo la terza settimana, avranno un certo afrore le magliette. Quello che so è che se ci arriviamo, noi apprezziamo molto volentieri l'accoglienza con il baccalà. Lo diciamo da subito, che ci possiamo sostituire a Leknessund e dedicarci noi al baccalà in quella giornata. Ma facciamo un piccolo passo indietro, perché prima che succedesse il grande casino di oggi, noi questa mattina abbiamo incontrato due uomini di classifica, o presunti tali. Uno dei due lo è tuttora, uno dei favoriti per vincere il giro, l'altro lo è stato, possiamo dire così, e adesso è 24esimo, l'ho detto prima, uno di coloro che oggi hanno perso del tempo. Stiamo parlando di Rigoberto Urán, il capitano, o uno dei capitani dell'Education First, che abbiamo incontrato sotto la pioggia, la protezione, quella specie di tettoia, come chiamarla? Tendone, forse. Tendone. Vabbè, non era neanche Ina. No, era grandicella. Prende un intero autobus. Dall'autobus delle squadre. Ma soprattutto non abbiamo ancora detto la parola più bella di questo Giro d'Italia. Dove li abbiamo incontrati? Dove li abbiamo incontrati? A Tripalda. Ah, certo, la partenza di oggi era dal ridente a Tripalda, in provincia di Avellino. Sentiamo Rigo. Ciao Rigoberto, buongiorno. Buongiorno. Facciamo in italiano. Sì. Senti, una giornata così, uno apre la finestra, vede questo tempo, cosa pensa? Niente, va avanti, non pensa niente. Sai che sei al Giro d'Italia e ormai questo tempo te può venire, come te può nevicare, come... perché ormai il Giro ha questa particolarità, cioè è una corsa che può fare caldo, 35 gradi, può nevicare, può fare tutto, perciò deve avere un po' di morale per fare queste corse. Quindi non è una giornata porco cane? No, no, no, no, no, no, una giornata, dai, una giornata diciamo tipica del Giro d'Italia. Tu il sorriso non lo perdi mai? Comunque. No, lo perdo ogni tanto, certo, solo che non lo vedete. Senti, il Giro d'Italia tu non tornavi da tanti anni, com'è il tuo rapporto con il Giro? Cosa ti piace dell'Italia? Mi piace, per me l'Italia è un paese che ormai quando sono venuto la prima volta in Colombia sono stato qua, mi hanno ospedato, cioè... Ho ricevuto tanto, come si dice, tanto amore d'Italia, ho anche delle persone qua che praticamente sono come i miei genitori, perciò ho un grande rapporto con l'Italia, ho imparato tante cose, perciò sto bene qua e sono contento di essere qua in questa corsa. C'è una tappa che aspetti più di tutte? Questa, oggi. Questa di oggi? Sì, perché? Oggi, perché piove. Ah, quindi ti piace oggi di più? Mi piace troppo, sì. Senti, qual è il segreto della vostra squadra che siete sempre così felici? Quando vi vediamo? No, ormai è una squadra che ormai prima abbiamo un rispetto per tutti i corredori, sappiamo qual è il nostro limite, proviamo a fare tutti i giorni quello che si può fare di più, cioè proviamo tutte le tappe, è una squadra un po' dinamica e diciamo che hanno un gran leader come Urán che hanno imparato tanto, perciò una bella squadra. Urán è il miglior leader di tutte le squadre? No, ci sono altri leader che vincono molto di più di me, ma altre cose, Urán è un grande. Grazie mille, buona giornata. Prego, grazie. Non lo scopriamo oggi che Urán è un grande, lo sapevamo già, non ci serviva questo velocissimo incontro perché era veramente di corsa, poi magari lo andremo a cercare di nuovo nel corso di questo Giro d'Italia, però sì, è un grande e siamo fortunati perché abbiamo incontrato anche un altro grande tra i personaggi che... Si candidano a protagonisti di questo Giro d'Italia. Se Urán l'abbiamo incontrato sotto il tendone, Teo Geoghegan-Hart, come si dice, l'avete sentito nell'introduzione all'inizio della puntata, per cui non chiedetecelo più, chiedetelo a lui. L'abbiamo incontrato invece sulle scalette del bus della sua squadra con una tenda che gli faceva quasi da bandana, non so, continuava a strofinargli sulla faccia questa tenda del bus e abbiamo parlato chiaramente a lungo anche con lui. Sì, aveva freddo Teo Geoghegan-Hart, infatti dopo la firma sul palco è tornato tutto imbacuccato con questo scaldacollo che gli arrivava fin quasi sugli occhi, poi ha speso qualche minuto sul bus e si è seduto sulle scalettine per questa intervista. Ancora prima di cominciare ci tengo a dire che è bello oggi aver parlato con questi due campioni in una giornata del genere. Stamattina non so quanta voglia ci fosse in giro di parlare, invece questi due corridori hanno voluto farlo con noi, tra l'altro, che non siamo certo i più eminenti intervistatori del Giro d'Italia. Ma l'intervista con Teo è cominciata dall'italiano, perché forse vi è capitato di vedere questo post su Instagram che lui ha condiviso proprio nel giorno prima, credo, del giro, in italiano, scritto in italiano, in cui dice amici, non lo leggerò tutto, ma comincia amici, siamo così diversi eppure così simili, e così via. Un bellissimo post in lingua italiana. Ho chiesto a Teo se sta imparando l'italiano e come lo sta facendo, come sta procedendo questo suo rapporto con la nostra lingua. Yeah, you try to retain what you can, listen to the guys, and in the end you spend a lot of time in the season in Italy, so it's also ignorant not to, you know, be able to speak with the hotel staff and fans and media and everyone in at least something basic. But that post that you published before the Giro in Italian, you wrote it yourself or someone helped you? I wrote and I had some help to translate it, yeah. Because it's perfect. Yeah, but it's with some help. E allora lui dice, cerco di carpire il più possibile, ascolto the guys, i ragazzi italiani del team, ce ne sono tanti nella Ineos. E lui continua invece dicendo, alla fine io passo un bel pezzo della mia stagione in Italia e credo sia da ignoranti essere incapaci di parlare, per esempio, con lo staff degli hotel, con i tifosi, con i giornalisti, almeno qualcosa di basico, di elementare. E dopo di questo io gli ho ricordato appunto il post che ho citato prima in lingua italiana, gli ho chiesto se l'ha scritto lui o se qualcuno l'ha aiutato, e Teo, con grande onestà, ha detto sì, l'ho scritto io, ma poi qualcuno mi ha aiutato a tradurlo. Io gli ho detto, è perfetto, infatti, e lui dice, sì, sì, è perfetto, però, ripete, ho avuto aiuto, scherzando, ridendo. E dopodiché sono passato a chiedergli qualcosa su un post, che lui ha scritto un articolo, in realtà, più che un post, questa volta in inglese, sul suo sito ufficiale, che vi raccomando di leggere. Il suo sito ufficiale è teogeganart.com, e ha scritto un lungo articolo, un racconto forse direi, su una delle tappe dello scorso Tour of the Alps, in cui racconta come si vive in gruppo, in gara, alle spalle dei propri compagni, no? Perché Theo Gegenhardt spesso è un capitano e gli capita spesso di stare alle spalle dei suoi gregari o compagni quando lo aiutano, quando tirano, quando fanno l'andatura e così via. Ed è un pezzo molto bello perché lui guarda i dettagli dei suoi compagni, le spalle, gli occhi, il collo, e racconta quanto sia importante per lui guardare questi piccoli elementi del corpo dei propri compagni di squadra. A un certo punto dice, it's all in the eyes, è tutto negli occhi. E quindi gli ho chiesto se ha visto qualcosa negli occhi dei suoi compagni o dei suoi avversari che possono aiutarci a capire come andrà nel prosieguo questo Giro d'Italia. Lui ha detto che ancora è presto, non è riuscito a individuare degli elementi, come dire, importanti o decisivi rispetto agli occhi. E allora a quel punto, visto che gli occhi non hanno dato ancora una risposta, gli ho chiesto del collo, perché secondo lui il colore del collo di chi ti sta davanti ti dice in che posizione arriverà chi sta davanti a te. You wrote the color of the neck of your teammates. No, yeah, just some guys you really see the intensity on the neck. In the end you can't see much when you're behind someone, no? So yeah, when you get to know your teammates really well, you know the small things when they're under pressure, when they're suffering, and yeah, you see stuff like some telltale signs, huh? For sure, some guys the neck really starts to go red, and when they have pressure, when they're pushing hard. Sì, in alcuni casi, dice Teo, vedi proprio cambiare l'intensità del colore del collo. Quando sei dietro qualcuno... Quando c'è sole, soprattutto. Quello sì, sempre. Però dice, quando sei dietro qualcuno, riesci a vedere tante cose. Quando arrivi a conoscere i tuoi compagni bene, nel dettaglio, noti anche delle cose minuscole. Quindi quando sono sotto pressione, quando stanno soffrendo, noti cose come dei piccoli segni rivelatori. E in alcuni corridori, il collo diventa davvero rosso. E questo succede quando sono molto freschi, o quando stanno spingendo al massimo. E quindi Leonardo Piccione stai spingendo al massimo in questo Giro d'Italia, perché sono bastati pochi giorni di sole e già... Sì, prima aveva addirittura il collo Leonardo, circondato dal segno del pass per la stampa, no? Il cordino. Il cordino bianco attorno al collo, bello. Scusa Leo, ti ho interrotto. No, io più che col collo ho un problema con le orecchie che mi... si surriscaldano molto in fretta. Perché lavori nei podcast. Sarà lì quello. È l'orecchia che bisogna guardare. Sarà quello, bisogna guardare le orecchie e non il collo. Ma va bene, dopo questo approfondimento sul collo, con Teo siamo passati a parlare del rapporto tra tifosi e campioni, che secondo Theo Gegenhardt è fondamentale. È fondamentale che il pubblico riesca a ritrovare qualcosa di se stesso nei campioni che guarda. E gli ho chiesto un po' proprio di dirmi qualcosa in più su questo argomento. Yeah, I think it's a weird paradox with sport because the big stars are a bit unattainable and impossible for people to imagine and kind of removed, and yet they also need to really value something in those people, which means you need to understand the person a bit or think that you understand them. And cycling definitely has more proximity between the fans and the protagonist than most sports, I think. You know, we're very accessible and people can come for free out on the road and they don't need a ticket, they don't need anything. For me, that's a big joy. And yeah, in the end, you just want people to root for you or to feel something when you do something in a race, even if it's performing badly or having a problem, or of course in success, in victory as well. I think if there's emotion, that's what you want people to feel. Because otherwise, yeah, I don't know really what the point is. You need to feel something in the moment that you consume sport as a product. Otherwise, better to do something else. Dice Teo, credo che questo sia uno strano paradosso nello sport, perché le grandi stelle sono come irraggiungibili, sono impossibili anche solo da immaginare per il pubblico, sono come rimosse, isolate. Però il pubblico in realtà ha bisogno di capire che tipo di persone sono i loro idoli, o almeno arrivare a pensare di capirlo. Il ciclismo in tutto questo ha certamente più prossimità tra i fan e i protagonisti rispetto alla maggioranza degli altri sport, perché noi siamo accessibili. Le persone possono venire gratis a vederci, non serve assolutamente nulla per venire alle gare, e per me questa è fonte di grande gioia, perché alla fine quello che desideri è solo che la gente faccia il tifo per te, o semplicemente, anche senza fare il tifo, senta qualcosa, provi qualcosa quando tu fai qualcosa in corsa, anche se questo fosse una cattiva performance o hai un problema. E allo stesso modo, quando vinci nel successo, nella vittoria, penso che se c'è un'emozione, ci sia tutto. Altrimenti, se non c'è, non capisco davvero qual è il senso di tutto ciò. C'è bisogno di provare qualcosa, altrimenti lo sport diventa un prodotto da consumare. E a quel punto, forse, è meglio fare altro. Do you think you are a people's cyclist? I think all cyclists, if you look at the history of cycling, should be a sport for the people. It's coming to their doorstep. We're traveling all around the country, we're traveling all around Europe, and no doubt in the future, hopefully again, traveling all around the world more and more. And yeah, that's the beauty of the sport. Anyone can take a bike, anyone can ride on the roads we ride on, and feel, you know, everything that the professionals feel. E qui gli ho chiesto, pensi di essere un ciclista del popolo? E Teo risponde, penso che tutti i ciclisti, anzi tutto il ciclismo, sia uno sport del popolo, perché arriva, è sempre stato così, arriva sulle soglie delle case, viaggiamo in tutto il paese, in tutta Europa, e speriamo in futuro di viaggiare di più anche in tutto il mondo. Questa è la bellezza di questo sport. Chiunque può prendere una bicicletta, chiunque può pedalare sulle strade dove noi pedaliamo e provare quello che i professionisti provano. E questo è sempre stato un po' uno dei cavalli di battaglia di Teo, no? La bicicletta, il ciclismo non solo come sport e competizione, ma come strumento esteso a tutti. Ed è una cosa particolarmente bella secondo me, ma poi non potevamo non concludere la chiacchierata con Teo senza parlare del tormentone di quanti giri fa, forse 2 o 3 giri d'Italia fa. Non mi ricordo se era 2019 o 2020. 2019, però, 2020. Uno di quei due in cui noi c'eravamo, era il 2019, sì, era il 2019, noi c'eravamo e avevamo lanciato una sfida a Theo Gegenhardt riguardo all'argomento del nostro podcast, ovvero l'alimentazione. Parlavamo di crostate. Where did you get the best crostata until now this Giro? I had every day one in the bus, so it was the best one because it's a bit unexpected. Normally in the past we had some people trying to say we can't have a crostata, and for me I love to have it, so yeah, nice to have one every morning. Did you discover any new food from Italy that you didn't know and now you think you like? No, unfortunately not yet, I don't think. I saw a lot of people on the side of the road with the arrosticini in the start in Pescara, but yeah, it was interesting to see that area a bit, like south of Pescara, because before I'd only been around San Benedetto and Ancona and more south like Bari, so it was a bit of coastline I hadn't visited before. And yeah, it's always nice to see something new. The fishing constructions on the sea where the TT was were pretty amazing, so it was nice to see. Grazie mille, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Quindi gli ho chiesto dove hai mangiato finora la migliore crostata di questo Giro d'Italia, e Teo ha risposto tutti i giorni, in realtà ne ho mangiato un pezzo sul bus. In passato era qualcosa di inatteso, c'era qualcuno che diceva se potevo mangiarla, però io l'adoro e quindi poterla avere ogni mattina è fantastico per me. A quel punto gli ho chiesto se c'è un altro tipo di cibo italiano che non conosceva e che ha scoperto in questi primi giorni di giro, e Teo ha risposto sfortunatamente no, non ancora. Però nei primi giorni ho visto molte persone a bordo strada con gli arrosticini a Pescara. E in generale, ha detto, è stato interessante conoscere un po' quell'area dell'Italia, perché prima di allora io ero stato più a nord, nell'Adriatico, tipo nell'area di San Benedetto del Tronto e Ancona, oppure più a sud, verso Bari. E invece quel pezzo di costa non l'avevo mai visitata, ed è stato bello vedere qualcosa di nuovo, tipo the fishing constructions on the sea, che sono i trabocchi. I trabocchi. gli sono piaciuti molto, ha detto erano fantastici. E se avesse assaggiato gli arrosticini avrebbe detto la stessa cosa, secondo me. Sì, non ho dubbi su questo, anche perché a lui piacciono i cibi, no? Come li chiamava? Quelli autoavvolgenti. L'arrosticino non so se possiamo definirlo esattamente autoavvolgente. Comunque, questo è stato il nostro incontro con Theo Geganhardt, che come sempre ha occupato parecchio spazio, perché è un uomo che oltre ad andare molto forte in bicicletta ha la capacità di dire una marea di cose nell'arco di pochi secondi. Ma non perché parla veloce, perché riempie di concetti le parole che dice. I concetti non banali. Gli abbiamo dedicato tre quarti della nostra puntata, ma ne è valsa la pena. Adesso, per riprenderci un attimo, passiamo all'argomento principale di questa puntata, il giro, la cucina. Le ricette dei campioni, per campioni veri, veri, veri, veri, per vincere, vincere, con cibo e gusto! Buonasera amici e bentrovati alle ricette dei campioni, per una nuova, entusiasmante, ma soprattutto buonissima ricetta che vi permetterà di vincere! Salve Gustav, che cosa ci prepara oggi? Beh, oggi andiamo a preparare un secondo di provincia primo posto assicurato. Sento già l'acquolina in bocca, oltre ad intravedere la vittoria. Sigla! Le ricette dei campioni, vincere, vincere, vincere, la ricetta di oggi. Questa ricetta è davvero semplicissima. Per fare un ottimo secondo di provincia primo posto assicurato ci occorre una pianta di vaniglia, un ramoscello asimmetrico edulcorato, un pelo di pesca a vostra scelta e una salsa ben frustrata della regione indiana più a sud delle altre regioni indiane. Fate rosolare tutto per circa un'ora e aggiungete legumi a volontà coltivati nell'emisfero sud a circa 2000 oltre da qui. Aggiungete la spezia del Mar Baltico a vostro piacimento, ma mi raccomando, non amalgamare ammestolate. Non piace al piatto, non piace a me, non piace a chi vuole vincere. Dopo circa 4 ore, il nostro secondo di provincia sarà pronto. Non vi resta che gustarlo prima di essere acclamati. Grazie, Gustav. E voi che ci seguite, siete pronti a vincere il primo posto? Io sono pronto! Le ricette dei campioni per vincere, vincere, vincere con cibo e gusto vi dà appuntamento alla prossima ricetta! È un secondo di provincia. Ma io non so se voglio che ci sia una prossima ricetta. Ma perché non vuoi vincere? Tra l'altro, i legumi a volontà in questa. No, ma era molto bella questa ricetta perché lasciava ampia libertà. Sia i legumi che le erbe, le alghe del Mar Baltico. Non mi ricordo cosa si potevano mettere a volontà. Sappiamo che se Remco non vincerà il Giro d'Italia sarà forse perché non ha assunto il ramoscello edulcorato. Può essere, forse dovremmo andare a parlare. Basta andare a parlare con i corridori, andiamo a parlare con i nutrizionisti delle squadre e sveliamogli le ricette dei campioni. Mi sono un po' incasinato, sveliamogli. Sveliamo loro. Si è capito cosa volevo dire. Illustriamo loro le ricette oppure, dei campioni. Oppure, meglio ancora, illustriamo loro o portiamo loro qualcosa simile a quello che abbiamo provato noi a un certo punto sul percorso di oggi. Con lo stato in cui ho trascorso il mio pomeriggio non credo che facesse vincere dal punto di vista sportivo. Però fa vincere sicuramente le papille gustative di tutti noi, credo, tranne quelle di Michele, no? Esatto, questi due che parlano adesso hanno mangiato circa un chilo di mozzarella zizzona di battipaglia a testa, forse due addirittura a testa, e io intollerante al lattosio, insomma, mi sono un po' arrabattato. Hai avuto la tua dose senza lattosio, quindi siamo stati abbastanza equi in tutto questo, ma direi di lanciare questo contributo perché, come ha detto tra le righe Michele, siamo stati a Battipaglia, siamo stati ad assaggiare la famosa zizzona. Io ho fatto il giro prima di voi. Ha fatto il giro prima di noi. Prima di te. Ma da ciclista o da giornalista? No, da venditore di latticini. Ho fatto a Tripalda portando in giro le mozzarelle. È la mozzarella questa qua. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signor Antonio. Io sono uno dei tre fratelli e tre soci del caseificio della fattoria. Siamo tre fratelli e tre soci. Dove ci troviamo quindi? Cominciamo a dire dove siamo. Allora, qui siamo a Battipaglia, il paese diciamo, come tradizione di mozzarella di bufala campana. Il nostro caseificio è nato circa 35 anni fa, però noi eravamo già, diciamo, mio nonno aveva già un caseificio. Poi la notorietà, diciamo che internazionale, la Zizzona ci ha dato una bella spinta su questa notorietà a livello nazionale e internazionale, perché è stato uno stimolo in più per farci conoscere, cioè la gente, la curiosità della Zizzona ha dato, insomma, parecchia curiosità alle persone, insomma, di venire qui e capire che cos'era la Zizzona, comprarsela e mangiarsela insieme. Perché si chiama così? Com'è nata? Allora, la Zizzona è nata, diciamo che noi prima del 2010, quando c'era un po' di crisi, e allora incominciamo a fare delle prove con delle mozzarelle grandi mozzarelle di, insomma, magari lanciamo una mozzarella grande che di solito non era molto vendibile. Pensavamo fra di noi di darci un nome particolare per fare in modo che attirasse l'attenzione delle persone, e quindi chiaramente a quel punto, mentre facevamo le prove, mio fratello disse: ah, sembra proprio una Zizzona. E poi c'è stato il film che praticamente ha consacrato il nome. Posso, ti ricordo una battuta del film, abbastanza distintamente, che adesso la dico in diretto perché è dentro il film, ma io non lo so, cioè, che è Cacciolat, sì. Che quando... significa che... Allora, che Cacciolat significa, lui disse, questa Zizzona, quando mise all'aperto, dice, era piena di latte, quando la vai ad aprire, quella mozzarella, quanto più grande è, più accumula latte dentro, quindi quando vai ad aprire una Zizzona, da una mozzarella da 5 kg, e la tagli in un vassoio, caccia un fiume di latte, cioè un sacco di latte, lui dice Cacciolat. Queste sono piccoline, la più grande Zizzona che avete prodotto? Noi abbiamo prodotto una Zizzona da 37 kg, sono messi per lavorarla, è stata un po' difficoltosa perché lavorare una Zizzona da 36 kg l'abbiamo messa in un recipiente, in una recipiente di plastica, così un tinozzo di plastica grande, abbiamo messo questa massa di pasta che era intorno ai 40 kg, l'abbiamo lavorata e poi alla fine, quando l'abbiamo spezzata, è un record, noi pensiamo di sì, poi non so se c'è qualcuno da qualche altra parte l'ha riuscito a fare più grande, io per quello che pensiamo noi, pensiamo di aver fatto un record. Senta, la Zizzona secondo lei è un cibo che fa bene o può andare bene per i cibisti? Perché noi siamo qui per il Giro d'Italia. Io credo di sì, perché tiene le proteine e i grassi giusti per dare un po' di energia. I ciclisti hanno bisogno di energia perché corrono, sono sportivi, quindi credo che sia io non sono un nutrizionista, ma penso che sia un prodotto giusto per... E poi mette anche allegria. E sono sportivi, come? Mette allegria, buon umore. E poi mette allegria. Avere una mozzarella di quella grandezza davanti ti mette allegria e ti viene voglia di mangiarla, effettivamente. Perché poi la mozzarella di bufala è molto gustosa, è dolce, è gradevole da mangiare. Lei se la mangia? Sì. Io non me la mangio tutti i giorni, ma me la mangio almeno 2 o 3 volte a settimana. E mette energia. Lei è la persona energica. Sembro, non lo so. Se lo state dicendo voi, io non lo so. Però qualcuno forse lo dice. Volete tagliare una mozzarella grande? La mettiamo nel vassoio. Se la vogliamo tagliare, tagliamo una sezione. Tanto a bocca piena, consigliamo a tutti di venire ad assaggiarle. È buonissima. È dolce. Si sapore... bocca. Amorosa. Posso dire che è una delle cose più buone che ho mangiato nella mia vita. Aspetti, vieni qua, avevo mangiato, è un assaggino pure a te, e se no che diamo? Franco, te ne vai così. Vabbè, io so com'è, sono dalla bontà. Va bene, però ti trovi qua, scusa, scherziamo. Conosco la bontà. Io sono tifoso napoletano, okay. E salernitano, di entrambe le squadre. Io sono un campano, preferisco tifo per le squadre del sud. Allora, abbiamo visto che hanno fatto la torta di Osimhen. La mozzarella dello scudetto quest'anno non la si fa, come può essere? Dico la verità, non ci abbiamo pensato, però può darsi. Se esce azzurra non è buona. Non è buona, sì, perché se esce azzurra non è buona. No. Che volete, un po' di mortadella? Di tutto? No, lei ci sta facendo mangiare troppo. Poi qua dobbiamo lavorare oggi pomeriggio, magari potessimo fare una bella pennichella. Grazie mille della sua disponibilità. Grazie a voi, è stato un piacere. È stato veramente una cosa piacevole, insomma, fare questo. Viva il Giro d'Italia e viva la mozzarella. Viva il Giro d'Italia e viva la mozzarella di bufala, giusto? E allora, grazie all'ospitalità e alla generosità di Antonio Paraggio e di tutti i Paraggi, no, di tutta gli amici che ci hanno supportato dal punto di vista alimentare quest'oggi a Battipaglia. Ci hanno accolto, ci hanno viziato. I lavoratori del caseificio, ma anche gli altri clienti che sono intervenuti anche loro a quel punto, perché è sempre un lavoro di squadra quando si va a mangiare la zizzona e non solo. Ma proiettiamoci alla tappa di domani ascoltando anche oggi come ce la presenta un locale. In realtà la sua tappa vera era quella di oggi, perché siamo passati da Oliveto, sono passati loro da Oliveto Citra, che è il suo comune di nascita. Stiamo parlando di Vincenzo Albanese, che è entrato nella top 10, hai detto all'inizio, sì, in classifica generale, e ci racconta quello che sarà domani la Napoli-Napoli tappa numero 6. Dai, qui abbiamo luoghi famosi, il Sorrento. Sì, Sorrento, il Limoncello, la costiera amalfitana, Amalfi, Positano, conosco ogni metro, e tappa bellissima, si vede Capri dalla costiera, quindi è uno spettacolo, si passerà penso anche vicino Pestum. È una tappa che ti interessa anche dal punto di vista, certo, ciclistico? Certo, tutte e due sono quelle che mi interessano maggiormente. In tutto il giro? Quindi la quinta e la sesta sono per me le tappe sono, qui, sì, di più? Sì, sì, poi vediamo, ma comunque sono le due che a cui ci tengo di più. Anche perché stai bene? Sì, sto bene, sono adatte, sono giù e tanti motivi, insomma. Senti, ma lungo questo percorso di tappa, un posto dove fermarsi a mangiare e cosa mangiare? Beh, sicuramente la pizza la fanno buona ovunque, poi anche tante cose locali che ora io non ti so dire di preciso. La tua pizza preferita? Margherita. Allora, molto molto semplici i gusti in fatto di pizze di Vincenzo Albanese, un po' meno semplice in fatto di altimetria la tappa di domani, che anche oggi vedo avere diversi spuntoni sul percorso, Michele. Sì, sì, sono diversi, sono due GPM, ma tanti su e giù sulla costa campana, insomma, penisola di Sorrento, zone molto belle. Che meraviglia. Sì, una delle strade, diciamolo pure, più belle d'Italia, perché si parte da Napoli, si risale da Pompei, Valico di Chiunzi sarà la prima ascesa, un seconda categoria, quindi un GPM abbastanza importante, sono 8 km a 6%, da non sottovalutare, e poi tutto su e giù, si passa per esempio sul bellissimo fiordo di Furore, c'è Amalfi, c'è Positano, prima del secondo GPM di Picco Sant'Angelo. Il finale però, gli ultimi 30-40 km sono di nuovo tutti piatti, per cui un po' come oggi potrebbe essere una volata adatta a chi riesce ad arrivarci. Non so qual è il tuo pronostico, Leonardo. Così, ho avuto un'idea io, pensando vai, comincia pure. Alla via in cui si trovava il caseificio, la fattoria, che era via Lettonia, c'è un lettone nono in classifica generale, magari Tom Squins domani fa tappa e maglia. Però hai detto che si arriva in volata, Squins dice che vince in volata. Magari arriva la fuga, è una tappa, è una tappa che può essere adatta alle fughe, visto anche il grande freddo e la pioggia che hanno preso oggi i corridori, magari nessuno nel gruppo domani ha voglia di tenere chiusa la corsa. Sì, questo mi trovo d'accordo, la possibilità che domani arrivi una fuga, vada via una fuga, e anche perché l'anno scorso a Napoli arrivò una fuga, una gran bella fuga, vinse Thomas De Gendt. E quindi ripropongo questo pronostico senza De Gendt, perché non c'è, ma con un fuggitivo importante che secondo me domani potrebbe essere Bauke Mollema. Domani è la tappa che aspetto di più dell'intero Giro d'Italia, perché trovo che abbia un disegno magnifico e cioè, è solo da guardare la televisione come guardare un documentario domani, perché sarà di una bellezza veramente travolgente. Credo anch'io, come avete detto, che la giornata di oggi peserà molto nelle gambe e nella volontà di tante squadre, per cui anch'io domani non ho grossi dubbi sul fatto che arrivi la fuga, soprattutto coinvolgendo corridori delle squadre che non hanno uomini di classifica, per cui, non lo so, forse IF, Arkea, Intermarché, insomma, saranno queste le squadre da guardare, anche Alpecin se non si sono fatti troppo male essendo caduti praticamente tutti. Scouns o Squins, non sappiamo come si dice, me l'ero segnato anch'io. Mi sono segnato anche Barta della Movistar, che a 2 minuti e 45 potrebbe essere un nome interessato ad andare a prendersi la maglia. Sarebbe probabilmente la prima maglia rosa da Boise, Idaho. Probabilmente, non ho dati su questa cosa, ma penso anch'io. Ad ogni modo, che arrivi la fuga o che arrivi la volata o che arrivi un uomo solo e domini il Giro d'Italia, domani succederà una cosa che è successa molto spesso quest'anno, perché domani vincerà Napoli. Sì, è vero, siamo molto curiosi e, come dire, impazienti di scoprire come ci accoglierà domani Napoli, ma direi che adesso in questa notte di sole, furore, visto che hai citato la località di Furore, mi è venuta in mente questa canzone. Sì, facciamo un passo indietro con Furore. Anche oggi non siamo stati sulle automobili dei nostri amici e compagni di viaggio di Shimano, lo rifaremo domani. Per oggi abbiamo preso un sacco di acqua e visto che quando saliamo in auto con i ragazzi, chiamarli ragazzi è una parola grossa perché la voce che sentirete per lo più è quella di Pietro Algeri, che è comunque un eterno ragazzo, quando saliamo su queste auto abbiamo sempre i microfoni, i registratori accesi e ne registriamo di materiale e ho salvato un piccolo aneddoto, racconto che mi ha fatto Pietro Algeri riportandomi un racconto fattogli a sua volta da Ernesto Colnago. Dei primi anni che faceva il meccanico. Allora, sai, avevano le macchine scapotabili, no? E sai, il portabici era dietro su, sai che c'era quei cofani dietro, no? E avevano sulle bici lì, le tre bici o quattro, non so quante erano. E una volta pioveva un temporale della madonna, e loro avevano chiuso, lui è, credo, Giorgio Albani, il direttore sportivo, avevano chiuso la capota. È arrivato, no, forse non era Giorgio Albani, prima ancora, non mi ricordo più chi disse. E arriva indietro Fiorenzo Magni, perché lui ha cominciato e correva ancora Fiorenzo Magni, chiama la macchina, va là, e Fiorenzo Magni incazzato fa: ma cosa fate? Ho detto scoperti, io prendo tutta l'acqua e voi siete lì al caldo, aprite subito con la capota lì. Ma gli ha fatto tirare giù la capota. Anche loro sotto il temporale, un'acqua della Madonna. Cioè, dopo un po' i piedi di Colnago si era fatto l'acqua alta così, no? E lui non sapeva più come stare. Ha preso il cacciavite e il martello, pom pom, ha fatto il buco nella lamiera e l'acqua andava fuori sotto. Una scamotai della. Una delle sue cose che ci raccontava i tempi, insomma. Accelerato troppo. E quindi la pioggia è protagonista in diversi modi nella storia del Giro d'Italia. Speriamo non lo sia domani. Speriamo non lo sia domani. Per nostra fortuna noi non siamo in decapottabile, per cui almeno questo ce l'ho. O in scapottabile, come dice il buon Pietro. Chi domani non dovesse essere sulle strade del Giro, ovvero penso il 99% dei nostri ascoltatori, perché non siamo un podcast regionale, e chi invece dovesse trovarsi dalle parti di Milano, gli diamo un consiglio, anzi un obbligo, un compito. Il compito è di andare da Rossignoli, negozio storico di biciclette milanesi, andare a vedere la mostra di biciclette ritrovate, che è bellissima, ma soprattutto andare verso le 19:30 in corso Garibaldi 71, dove si terrà un'iniziativa intitolata Al Vento fa il suo giro, in cui interverranno l'editore di Al Vento Davide Marta, il nostro Gino Cervi, Stefano Francescutti, Stefano Zago, e c'è scritto nella descrizione: in collegamento da Napoli gli inviati di Gironimo. Addirittura. Non lo so, così pare, non lo so, presto lo scopriremo, mi sa, per forza. In ogni caso vi invitiamo ad andare, anche perché con un parterre de roi di questo tipo, dato alle 19:30, fate in tempo a vedere la tappa, andare a questa presentazione e tornare a casa, e a quel punto uscirà Gironimo, più o meno, potrebbe essere così, dipende dove abitate. O forse c'è ancora l'Eurovision in corso, domani c'è la seconda semifinale, stasera adesso dobbiamo accendere la TV perché il secondo classificato della tappa di oggi è impegnato anche questa sera in un altro evento sportivo importante, e facciamo anche stasera il tifo per lui, almeno alcuni di noi lo fanno. Sicuramente Gino Cervi, questo non abbiamo alcun dubbio, per cui da questa serata dipenderà anche il suo mood, come dicono i giovani, nella presentazione di domani. A proposito di giovani, per salutarvi vi lasciamo con la voce del giovanissimo della nostra redazione. Ci vuole poco essere più giovani di noi, ma Michele Pelacci, che oggi è intervenuto molto poco, e non perché era distratto su internet, no, per una volta non eri contento, distratto. Sono contento, mo c'è Milan-Inter, mi guardo la partita, tutto bene. Tutto bene, e allora con il contributo di Michele da Salerno in omaggio a un grande salernitano, noi andiamo a vedere se ci servono ancora la cena. Ciao! Non manca molto all'arrivo a Salerno della corsa, ma io sono in Vicolo San Bonosio, che è una strada stretta a Salerno, nel centro storico di Salerno, vietta stretta, con il picchiettare delle gocce, forse le sentite sui teloni dei ristoranti. Ci sono affreschi in vicolo San Bonosio, affreschi o frasi di Alfonso Gatto, scritte sui muri, scritte fino a 3-4 metri in alto sui muri. Alfonso Gatto, poeta, scrittore di Salerno, che a noi interessa qui particolarmente perché è stato un giornalista di ciclismo. Per un anno è stato inviato per l'Unità al giro del 47 e da lì ha scritto pagine molto belle di letteratura sportiva. Mi piaceva leggerne una, proprio da qua, in questo arrivo appunto a Salerno, nella sua città. Lui al 47 non sapeva andare in bicicletta. La voce che lui non sapesse pedalare si sparge un po' nella carovana, nel gruppo, no? Per cui riesce, in modo abbastanza così simpatico, a trovare in Fausto Coppi il suo insegnante di bicicletta. Si mettono lì, provano a far pedalare Gatto, che non riesce, non riesce a pedalare, insomma non riesce ad andare in bici. E così, come finale del racconto, di quel racconto, di quella giornata, Gatto scrive: di una cosa sono certo, che se io sapessi andare in bicicletta sarei un campione. È ridicolo che ci si serva di quella macchina da angeli per camminare, come fanno tutti. Cadrò, cadrò, sempre fino all'ultimo giorno della mia vita, ma sognando di volare.